cosa non si può invariare tra una rigore e l'aria. Ora, grazie a macchina. Poi dirò questo. No, è stato voluto per questi, ma no. Se andava. Non sai cosa... Si conferma, vabbè, al limite poi ci facciamo doppiare noi. di noi, perché deve venderlo per il momento, non c'è problema, non c'è nessun problema, se non vuoi te lo domando, capito? Perché è veramente molto molto molto bella, ecco, vi dico che è bello, è bello, non c'è niente da fare, io so apprezzare le cose belle, bello, nuovo, ordinato, in ordine, perfetto, non mi piace a me, le cose che hanno tenuto a quei livelli, quindi se lui ci dà esito positivo non avrebbe, se no proveremo una soluzione, se la tua è definitiva. Allora, come lo so qua, cioè praticamente in quel modo sarebbe andato per la conta del clima, quello ci ha parato, chiuso, come se fosse imballato. Ciao, ragazzi, la ripresa, la taglio. E le prime, per favore. qualcosa per segni. Mi sono dita, ma chiudo, cazzo, non ho voglia oggi. Ma certo, quando ho dormito, magari, perché siccome stavo parlando di un lavoro che ho mandato io, la chiamo la detto Gigi, no? Ho detto, ma fai un andato, gli ho detto, no? Tu cosa mi hai detto a me? Mi hai detto che non era vero, che non so, se cosa dicevo, vero, ho detto così, tu l'ho detto. Ciao. so, non ce la potevo usare con questo, capito? Lo so, usare già si può usare. Il problema è che praticamente ti chiude Quindi meno QRM, abbiamo se lo sento, ma la chiama, scrivetemi, c'è anche il proprio attivo, RSI, se non la chiama, diciamo già la prova, per cui vediamo di spostarci qui. Sicilia. Valtex stava parlando come se fosse uno di Sassari, uno di... tranquillamente. Ma non c'ero io loro. Vedi. Ecco perché dovevi arrivare alle 9.60. Mettiti, non oggi compreso, è che meglio di me di battersi. Mettiti, non oggi compreso, sono più bravi, ok? Non ci sto cercando io, per quella questione lì. Ti metto qua, mi sono anche andata a mangiare. No, però, Martino, non voglio neanche ne parlare io, già. Mi scendete giù. Vabbè, noi io e Walter siamo due tipi tu, da, confronto a te. Però, non lo so chi. Però, guarda, la collaborazione non c'è. Flavio, non voglio vendetta, che sto un po' forte. Però, guarda, i punti arriva bene qua, Ma tu lo sai quanto stiamo facendo un altro per arrivare a quanto arriva Roberto qua? Faccia perdere, ti do se lo sai usare. E comunque non lo fuga neanche lui. Non è un blocco assoluto, né di lui e né di nessuno, non ce n'è, non ce n'è. Sì, è più lento di quello che c'è, anche se ho lampato mentre lo banderò, guarda che Natalino ce n'è uno, tutti gli altri sono nessuno. Ha detto mia figlia, smettila. Sarà bravo Natalino, glielo sai, che ce n'è una, è blu. Sì. Il 960 non puoi arrivare via. va bene, mi va bene, bisogna fare la prova. Devo fare la prova. Non costa niente fare una prova. Però poi arrivo 9,49, poco mi dice 9,45, poco mi dice 9,50, non so neanche io quando arrivo da Franco. Ti sto dicendo, ci attacca l'amplificatore cloud e ti passa sopra. Tranquillo. Io ho visto cose della trofa. Perché i camministi devono dare dell'acqua, non riescono a fare i dazzini. No, ma se avessi avuto il segnale più alto, 9,50, magari liscio, cioè da lui, ma io l'ho visto il tuo segnale, capito? Sei un pelino più alto di me, un pelino più alto di me, io liscio, ecco, io liscio. Immaginate che io con l'amplificatore incremento 3 punti S, quindi se sono 9,40 dovrei arrivare quasi a fondo scala, supero 9,50, quindi sicuramente, non so, già non farò prova. Ricezione, guarda, anche uno che mette la portante non siete più. Comunque io ti posso dire che tu qua, a parte Roberto e Franco, sei il segnale più alto, perché Gianni lo passi, arrivi leggermente più alto di Natalino, e poi dice, vabbè, tutti gli altri lo stesso. C'hai un ultimo segnale per avere pochi watt. Attenzione adesso. In barra in vendita, come ce l'hai? Questa è l'ala 48 con l'M93. Minchia, finisce. Smiglia, non è di sotto la voce qua? No, no, finisce un greco. Adesso è al massimo, sta saturando, fischiando, non cosa si intende? No, no, no, niente, niente. Va basso, però qui non mettalo, qua, metta va bene. Se lo tira al massimo. No, no, sono una prova, adesso è a metà, un po' meno della metà, dai, per vedere come arrivava, se saturava. A saturare non satura, che al massimo un po' di forza la modulazione, ma saturare non satura, non puoi mai saturare, come fa a saturare? Sta saturando, è logico, no? Saturi quando stai spingendo, allora saturi, avanti. Ma se la saturia, io non più lungo. Ah, Roberto, deve cambiare la capsula. Questa è l'ala 48, non è quello che mi ha dato Luca. Lei me la manda a tre con la capsula, mi pare, cos'è il telefono? Di cosa hai pigliata? Che telefono? Hai mappe? Eh sì, va bene. Non avevi già provato quello? No, su questo apparato ho fatto solo una prova ieri, o ieri con Claudio e Luca. Va molto bene. L'ala mi sta dicendo che la fare questi microfoni. C'è poco da fare, è un barattino che qualsiasi microfono di limone andava. Ma è l'ultimo colore adatto questo 497. Ma te l'ha dato questo numero? No, sto parlando del mio, è l'ultimo 497, tu la devi vedere, tu stai parlando del Mubicom. Ah, scusa. Il Mubicom adesso. Non l'ho mai provato? Sì, l'ho sentito, domani lo porta. Vabbè. Capra gara. E intanto lunedì, se vengono guardo, se mi piace, se no se lo tiene, anda bene, scatta la gamba, così ce l'ho apparato per mettere. Cosa vuoi in cambio? Cosa vuoi in cambio per quella radio con la macchina? Se lo prendi Roberto, ma non sapere se lo prende già. Io lo voglio ossa e di chi è la palitù. Non lo voglio più, va, tu ti dimmi, tu mi interessa. Mi ha trovato un altro, 45 euro, lo faccio quel posto subito aspettando. Eccolo qua, aspettato. Non mi interessa più, Roberto, bello già. Se non vuoi già, dice qua la pittura. Non l'ha trovato. Già l'ha trovato. Claudio, mi chiedo, l'ho già trovato. Mi ha detto che questo amico, mi ha detto, guarda, se riesci a vedere il mio coso, ho detto, porta, vai all'officina, lo faccio sentire in radio. Saluta a tutti, ma intanto mi sento bassi e quindi no. Ciao Pietro, per avere ti salutano tutti gli amici di Sassa, e a presto, ciao ciao. Un attimo. E dov'è? Dov'è? Ok. Santiago 3 adesso, tutto chiuso, cioè per applicato le disinserito, cioè fai pure di segnale. Adesso prova a attaccare il amplificatore e vedi se sta il segnale. No, no, sta via, cioè, però volevo provare sui segnali di esempio, Santiago 1, quelli di così parte, tu sei abbastanza forte. Aspetta, ma sono tre senza amplificatore, quanto sale quando inserisci l'amplificatore? Allora, fai un passaggio un po' più lungo, te lo dico. Sì, metto solo la portante. Poi? Allora, sei arrivato 8, da 3 a 8 sei salito. Funziona bene, fuscio di fondo aumenta di molto? No, non ne ho sentito qua. Diciamo però non è una cosa molto credibile, così perché il segnale è già buono, è già pulita la radio, eccetera. Volevo provare con quello lì che era molto basso, con quello di Ozieri, che aveva un segnale di 1, per verificare effettivamente se si portava a presa anche il QRM. Così segnale di 3 me lo porta a 8, non c'è problema, arriva perfetto. Guadagno tantissimo e non c'è fuscio là. Va bene, aspetta che abbassa ancora, parlate, dai. Parlate voi tranquilli che io faccio un lavoretto e rimanisco ancora segnato. Ma poi arrivi già. Pensavo a cercare quell'antenna, ma mi dà solo i siti della Sigma che ti mostra le antenne, cioè praticamente quella Minox la fanno in due tipi. Una con la molla centrale e un'altra che è solo lo stilo, come la vuoi dire. Sì. Dalle tue parti invece come arrivo io con questo faccia? 9.30. Addirittura? Sì, signore. E col Catalina come mi senti? Noi 9.40. E roba lì tu fortiva e tiravi di pure. Ah, altro 9.40, volte lì c'è lì, siamo 9.50, diciamo. Bisogna vedere però che fai falsa. La spunta. Ah, puttana, sì. 9.40, buon segnale. Ti faccio da avanti, così di sessantenne. E anche tu dici molto diverso, sì, non si davanti a lui. No, lui è di vera, a me no. Io sono coperto molto per lui, già lo sa. Ah, così è. Merre. Lui ha l'impressione di avere un vicino in casa. A chi? A me. Perché lo sento molto vicino alla vara. Ah, le punti abita, vara. 30 anni che abita le punti, anzi 40 anni che abita le punti. Ma per dire lui che ha sempre trasmesso dalle punti, sempre. No. Ha un segnale vicino. Sì, c'è un segnale, quando ti arriva. Fatemi di 9.30, un chissanario. Più di 9.30, poi 9.50, vara. 9.50, supera Roberto. A me ne arriva 9.40. Non segna tutti 9.30, come stai dicendo tu. Segna il tanto giusto. E anche tu sei 9.40 da me. Ah, non sapere che ci vediamo con le antenne. 9.40 picchi a 9.50, claro, 9.50 a 9.55. Dove sei tu, perdona? E di fronte a te dove c'è l'altra casa? A Sarlo lì da te. E di fronte a te. Claudio, quando ti arriva? Prova qua. Vabbè. E 9.35, 9.40. E c'è il mio segnale, uguale. No, tu sei più forte. Io ho una lanterna che c'ha 30, più di 30 anni, lui c'ha. Ora vado a 55 metri di caldo. Perché non ce l'hai l'antenna? Vabbè, ma tu lo metti, quel tuo smith arriva sia a 9.30, quello già. No, quello grande. Allora, vediamo, perché io sono a mio 8.30, guarda. Io però appena di più. Vediamo. Adesso è 9.35. Ma c'è praticamente cosa c'è, non è che arriva 9.40, c'è scritto 7, arriva fino alla scritta 7, c'è 9.30 più 9.35 più 7, quando arriva sul 7 va 9.40. Ma non lo sta segnando 9.40, siccome quella radio le conosco, il segnale è 9.30, c'è la seconda, poi tu vai a raccordare il 7 del stazionale, quindi non è quello un segnale, il 7 è un'altra cosa, tu vai a raccordare lì, vai a scala del 7, c'è un'altra cosa, però il segnale è tuo, arriva sino a dove sono i numeri, sino a lì puoi dare il segnale, perché oltre il 7 quello non è un segnale, non è un po' lo scala, capito? Quindi se io no, io adesso che ho aumentato devo arrivare al 7, invece non ti arrivo al 7. Non è capito. Ah, praticamente se parli tu, mica se avevo dove sapere cosa c'è. Arriva dopo il 9.30 qua. Dopo il 9.30 c'è la scritta 7, invece che scritto, deve esserci scritto 9.4, c'è scritto 7. Io ti sto dando quello come punto di riferimento, poi c'è il fondo scala dello smith, no? Cioè, basta attenuare, te ne accorgi subito che è più forte, no? Attenua. Poi passa, va, questo ciclo che l'ha passato. Insomma, c'è piccolo sono io, là. Non io sento le cose che mi viene a me di gitte. Adesso va quasi 9.40, il più forte sempre Claudio, 9.55. Io non sono un maschio, ma anche se alzi devi uscire di un 3 kW per arrivare. Ah, tu hai trovato il 7, invece non è 9. andare in... Natalino, ah, si vede che la famiglia è arrivata all'altro. Natalino, dimmi Roberto. Guarda che c'ho un amico arcivescovo che è entrato nel Vaticano, mi devono prestare i lineari che usavo la radio Vaticana per non pagare. Sì, facciamo la gara, facciamo. Quello lo posso incavolare a Claudio. Quello te lo posso anche prestare, bisogna dove le vinci. Dove le contiamo di quelli trasmettono con i tralicci direttamente, hanno i tralicci con le antenne. E ci vuole il dirigismo a raffreddarli. Ma che? Walter, non sai come arrivo io, mi hai sentito comunque. Ciao, dove prova? Ho avuto le prova a 30, 40, 50. 20, 25 di picco. Io normalmente come adesso è questo signore più forte chi è cucù chi è? Cucù. No, ce n'era uno dopo di te, molto più forte. Già, castigato, chi è? Ma che vicino? Come fa cucù, qua c'è solo amico tuo Franco, altri che ci possono mettere, cucù, sopra il cavio sbarmiero non c'è. Gappa, adesso già sta andando la cosa. Ma io, guarda questo 7, Gianni, dai. Metti questo 7 in funzione, vuole vedere se è stato bene. Ma io, metti, pronto, sì. Aspetta, che vedo. Si è attenuato. Mi ha un po' attenuato con la vita. Prova, io... Allora, senti tu e gli alcuni chilometri. Ti rimetto sotto casa per passarmi con Roberto, ma comunque imbarazzato, andata lì, perché se passo la Luca, tu sei, sei davanti a me, non ho attacco lì per te, quindi bisogna, vedere, vediamo un po' se c'è tenerlo, attenzione, Marco Scorpio, Marco Scorpio, se ascolti Sassa ricambio passo, prendo conto e ci butto tutto dalla finestra, capo. Se Salvatore può dare dei riferimenti perché è più lontano, tu sei aperto questo Salvatore, anche lui se da lì può, ti ha aperto anche lui, possiamo avere un riferimento affidabile. Da lì lo passo col bambino. Problemi, ho fatto tantissime. Il dottore, se forse quando eri a casa tua, dove sei adesso lì? Come sei messo adesso? No, ma non so, ho problemi di là, non lo so. Non mi ricordo, facevamo qualche prova, però eravamo lì, eravamo lì, se ti ricordi con Gian Paolo. Facevamo qualche prova, eravamo lì, ma in queste condizioni ha prodotto le serie, uno per 30, lasciate. Non ce n'è. Tu hai un'ottima zona, quando eri di là, le cose le abbiamo sempre fatte, eravamo lì, io avevo due o tre zone, tu ne avevi altre due, andavi bene per una, andavi peggio per l'altra, però le cose le abbiamo già fatte, non è che dobbiamo restare una macchetta a poter di tornare più grande, fare competizione. Adesso sono tutte 27 perché i carri sono tutti cambiati, l'antenna è nuova e infatti veniamo a differenza degli altri ruote non c'è la potenza. Le lascia perdere il watt adesso, parliamo di potenze simili perché il watt se ne li metto io di supero di 5 volte come potenza. Parliamo di una cosa che stiamo usando normale, io sono di punti di adesso in questo momento, in quale posizione parli? Tu hai punti di due posizioni, lo sai, no? Tu vedi nell'altra, non dove sia adesso. L'antenna è sempre nell'altra perché ho tirato il cavo dall'altezza di Babbo qua. Si è addormentato, c'era un giocattolo, come si chiama, il V131, il V131, si è addormentato. Marco 131, vabbè, già ne ho messo, ma non ci va come te un catamarano, lo so. Ma già non so che cosa era uscito, era piccolino, cioè non c'era competizione, non c'era gente che poteva mettersi a bruciare il mano, e tutti i giorni mi era una cosa continua, già, tutti i giorni. Dalle due in cui a mezzanotte in cui, quindi non c'era più nessuno, capito? Allora ci mettevano a giocare. Ma tu a Radio Club Nord Sardegna, ma stato iscritto sì, dove c'era Giulio come presidente, eccetera, eccetera, si è rialuzzata. Che fine ha fatto Giulio? Non lo so, io non l'ho più vista da già anziano da quando sono stato a voi, io che ero un ragazzino. Non lo so più che si abbia fatto, però io me lo ricordo che qua sempre mi arrivavano lì a mettere dire, me ne ritiravo da lui. Frequentavo, c'era Radio Antonella, tutti quei tre ricordi vanno. Tutti quelli che hai detto, anche di te mi ricordo. Caspita, tutti. E io c'ho anche prima di loro, perché loro poi erano della seconda manata, io c'ho dal 68. In quel periodo c'era prima Giorgio Grassi, che ero con Sant'Antonio. Alfa 1 si chiamava, poi Limonero, Pisello come si chiamava, poi c'era Nadir, Casimiro Martino si chiamava, quelli eravamo intorno al 70, e io le ricordo tutte, avevo 10 anni. Sai quando parlare di altro, lo ricordo, San Mucca, lo ricordo tantissimi loro, addirittura cosa, a Maccallè io l'ho conosciuto, era il padre di Attila la notte, sono andato in ferrovia di Savola, mi pare che era capostazione o qualcosa degli occhi dell'Ante, sono andato a visitare la sua stazione, rari e cose, ma no, io non mi ricordo tutto, certo che tu non ricordi, io ti ricordo male, non avevo detto che ti sei robustito, però io ti ricordo male, reale. E magro, ero tutto sì, adesso ho preso 98, ne pesavo 120, poi ho fatto un programma 4 mesi di Herbalife, sono sceso di peso, adesso scenderò ancora. Sì, mi ricordo che Macalè poi era un signore, proprio in gamba, per Palpello è stato lo stesso, per Palpello è stato era, no, non era più il baracchino, era il Tocai 5024, usciva, era una cosa spaventosa, un professore, poi ha lavorato anche a Della Bona, un geometra Della Bona, non così, quello che gli mancava un occhio, e usciva la biotazione da una parte bassa. Ehi, non lo ricordo. Sì, ne ho visto tantissimi, io forse diciamo ci sono tantissimi anni, poi ho mollato per 10 anni con la verità, però poi ho ripreso, cioè, l'apparato l'ho sempre avuto, stavo l'ascolto, non sentivo benissimo, solo per REM, poi diciamo, ho sentito Sparviero con cosa, non ricordo, Contino, e poi anche a, anzi no, prima ho sentito a, come si chiamano, il Congio Maria e cosa, come si chiama, il Mario Mao. Poi c'è anche Claudio e cosa, e Tino, e c'avevo un po' fattivino, poi ho ricominciato a rifarmi la stazione. Non ricordiamo il video Coral che parlava in grande cielo. Coral non ne ricordo uno, però non sulla dove modulava. Sì che me lo ricordo questo Coral, però non mi ricordo dove modulava. Mi ricordo che c'era anche un Corrado che modulava la grande cielo. Sì, bravo. Corral modulava era il ragazzo, il fratello di Mirella. Ehi, ci conosciamo una vita noi, il direttore del Banco di Napoli a cosa. Ehi, te lo vedo in presa, ma c'era, no, un vero, sempre scritto lì, capito? Presidente vicepresidente era Ermetto Rocca, quindi eravamo tutti lì iscritti noi. Lui in Sassa io non neanche conosciuto la Settimo. Quando sono venuto qua ero già un grande pirata, usavo già apparecchiature, ero già un pirata. Quindi mamma, praticamente baracchini e cose così ne ho fatto poco, ho fatto sempre la roba. C'è un fotografo, te lo ricordi già, sempre lì al grattacielo. L'avevo comprato, ce l'aveva, che ce l'ho uno adesso, perché Sommercamp, quello con l'orbita al centro. Sì, Allora quello aveva la bella, perché era una buona posizione. Era in gamba quello, gli hanno dato, mi ha dato l'antenna quella, aspetta cosa è successo, mi ha dato l'antenna in alternativa a quella che avevo, la Monrack, era una cubica della Echo mi pare, non della Echo, come avevo in dubbio, quella Galaxy si chiamava, no? E l'ho venduta 350.000 euro, che avevo pagato, l'avevo venduta, uno ce l'ha andato a Visilio, a Villa Gorizia. Adesso mi viene il nome in mente, un miserabile, era un mai si ha sbagliato. Un po' di ragazzo, ma non credo. No, due volte le mie medicine, come è successo a me. Vabbè, comunque, diciamo, me ne ricordo tanti, te ne ricordi, aspetta, come si chiamava? Don Diego. Però credo, non lo ricordo, personaggio anche quello. Come stava con quello del carcere, il Gobetto, che poi gli ha lasciato l'eredità. Allora, una volta ci chiama i carabinieri, perché stava leggendo il giornalino pornografico, diceva tutte le posizioni, tutto quello che aveva, poi si metteva a fare quella risata, proprio allucinato. Poi io non vedo chi c'era, su Bastone. 72 su Bastone è quello che ha rovinato tutto, è iniziato a rire, perché prima non è che la provaccia uscita, quello ha fatto un disastro. Ma c'era la Greta di Porto, c'era lo stesso Bastone, e diceva che poi è morto, aspetta, parlava di una persona, non facevamo un'opera, e così dice, non facevamo un'opera, che c'è tesoro, poi io già non l'ho mai... sentito, eppure noi eravamo già in mezzo, ti ricordi? C'era sempre, non hai sentito, c'era sempre. Quindi, insomma, non ho fatto una, caccia al tesoro, ne ho fatto una lo stesso, poi non partecipavo. Non c'ho più il baracchino che avevo prima, il toccai, il Catalina. Il toccai ne ho 3 o 4, quei 50-24, non ce l'ha fatta. E poi c'ho un Midland base, un Galaxy Saturnet, come si chiamano quelli grandi, la base, il pony di tre canali, come ricordo, i due Comsat, c'ho, quelli di vecchi ne ho diversi. Ce l'ho anche io il toccai 524, non ho di gioia, ma con graffetta c'è. No, lo conosco, lo sto dando, se interessa qualcuno. Mi ricordo anche che a Porto prima i CD erano la storia aragonese, poi si sono trasferiti nella cosa dell'Aeso dove c'era l'accesso, sono stato molto molto lunghi, e ci sono andato parecchio lungo. Quando sei venuto c'ero io presidente, era prima Francesco Morisi, però ho fatto io presidente lì, non ero l'Aeso. Non mi sono mai iscritto, però... Fernando, te lo ricordi, Fernando, quello bassottino, quello baffetto. Sì, sono Chiedi di chi va venuto tutto fatto l'apparecchiatura, che il coso, allora, l'FM500S, il lineare, tutto qua che ho venduto, tutto qua che io gli ho venduto a lui. Se mi spacciate le gambe, ricordo che in quegli anni erano tantissime, io le conoscevo tutti, sia quelle di Sassari che quelli di Popoli. Tu non lo conosci per Sassari, quando io mi ho fatto un perché ci sentivano tutta la sera, per andando elettronico, non lo vedevo. Poi vabbè, gli altri ce n'erano due da Ottava, Antonello, e c'era una ragazza lì a Ottava, e poi chi c'era, non mi ricordo. C'è un sacco di gente, io nel 72 mi ho fatto l'autobus, nel 72 all'80, avevo all'82 per fare 10 anni, e poi sono venuto qua a Sassari, ho detto, io non ho mai smesso sia da quando ero l'autobus che quando sono andato a Sassari, quindi non mi ricordo cosa vuol dire, non so, forse magari in quegli anni che tu non avevi tenuto tutto spento, io ero più attivo, quindi non sentivo questa modulazione. Non è attivo, non lo ricordo, ma però non ricordo di averti mai conosciuto. Allora, io ho smesso dall'90 a quando adesso che ho ripreso, guarda, dall'90 ho smesso, perché ero tanto, mi sono fermato e me l'ho messo in casa, poi mia moglie mi ha detto, intanto non c'era nessuno, questa è là, che quindi la cosa antena l'ho tolta, e poi l'ho ripiazzata, capito, perché poi ho visto che la gente sta aumentando e ho fatto la cassata, siccome c'è sempre nel cuore la radio, visto che l'ho avuta tanti anni, l'ho passata in tante macchine, l'ho avuta nella T50, l'ho avuta nella 500, l'ho avuta nella 127 che ho distrutto, l'ho avuta non belle macchine, capito? Ce l'avevo a casa di mamma, a casa di mamma c'è il quinto e il giambarito frate. Come cose, e l'antenna ci avevo la Grand Plane, una Grand Plane con i radiali 2,65 di quelli lunghi lunghi, ed era anche abbastanza alta, e arrivavo bene un po' tutte le parti. La Grand Quinto me l'hanno rubato da un furgone. Allora, una Grand Quinto 200 canali, con progerbusto e come l'MS200, anche l'MS200 ne ho un paio. Però me l'ha rubato, non la posso sopportare perché l'avrei tenuto da parte, però l'ho messo in furgone e l'hanno rubato, non l'ho più trovato. Se lo trovo in giro lo compro una Grand Quinto. Questo è l'altro che era 120 canali, quello aveva il bip con una triglia, una quaglia B. Quello lo conoscevo. Quella, ti sto dicendo che l'ottava c'era anche Blocchetto, poi c'era Romoletto, il fratello, poi c'era Campanella di Girolamo, ma molto dopo, lui è venuto dopo. Sì, ci trovo lui. È che bella la sala, ragazzi. Mamma mia, ragazzi, era una cosa. Quello là aveva dei finali indistruttibili. Sì, era anche Piero. Piero, ce n'era. No, mi ricordo la ragazza di Antonello. Così frio, sai come tu la ragazza di Antonio come si chiama, che mi stava attaccata a Blocchetto, se dai sempre Brienne. Giovanna. Giovanna e Norto, come si chiamava? Giovanna, lo si chiama, vediamo, sì Giovanna, non lo conosco molto perciò, ma ormai era poco troppo, infatti qui sono le prime persone che ho conosciuto quando sono arrivato a Sassari. C'era un'altra, non mi ricordo il nome, era solo chi se ne ricorda queste cose. Cioè, se non nominano gli altri mi vengono in mente anche a me. Erano in tanti comunque. Ma loro si chiamavano uno come ora da nero, e poi c'era l'amico che si chiamava Gilberto Cilian in tono. Permesso, Rec Scorpio. Avanti. Ma cosa ci fanno sei tu? Che ciao era? Buonasera a tutti, trazione Scorpion, mobile, avanti Scorpion. Poi c'è una stazioncina di quelle tutte leggere, Scorpion, senza freno. Mitico e negativo, sì, e non c'è una 80. pistole era ancora arrivato di più, anche il tornato era un cavo. Cazzo, ma io non capisco come facesse a bruciare i finali, cavolo, 3 ore parlando, senza mollare 5 secondi la portata. E gli hanno bruciato Baracchi, poveraccio. Tu non lo sai, Walter, ma è uscito un sito su internet dove c'era tutte le fotografie di Falcone, c'era lui, io c'era la parte dei CD che avevamo fatto e l'hanno riempito tutto di schiuma, te lo ricordi? C'era anch'io, lo trovo anch'io. C'è la fotografia quella lì, poi ci sono tutte quante le praticamente aspetta come era scritto, continuation di Falcone, una cosa del genere. Poi c'era lui che cantava, lui che si incazzava, c'era la loro tutti tre, cavolo, ce l'ho tutto qua. Ma come mai ti sono messo Gianni la a te? No, non mi ricordo qua. Ma c'è pure che noi ci siamo visti conosciuti magari di diverso, no? Non so, non mi ricordo. Io mi sono 50 metri a Gambino, ma c'è quello lì, magari è capace che ci siamo anche visti conosciuti e poi non mi ricordo, perché sono passati tanti anni, sembra così, ma se ti giri indietro sono passati 30 anni, 32 anni, non è che sia un giorno. Ma adesso la modulazione va meglio oppure no? Sì, adesso è buono. Perché avevo fatto le altre regolazioni. Adesso com'è in questo passaggio qua? No, no, è adesso. Ma non è più cupa, no? Adesso va meglio, prima era cupa o patata, adesso va meglio. però quello dico che esce male, Claudio, esce male rispetto ai suoi standard normali, molto male. Adesso vabbè, io qui sto usando il 950, come quello che c'era Marco, il digital. Se cambio il microfono o se faccio delle migliorie, rimetto il sound, sicuramente migliora. Però penso che non lo uso quasi sempre nel frame, io qui non entro quasi mai, non sto entrando ogni tanto. Non lo uso nel frame perché parlo su canale 23 con l'altissimo, molte volte siamo lì. E dunque lì no, non c'è quel problema nel frame della saturazione. Così è un pochettino più alto, un pelino più alto. Questa è una modulazione di direzione, quindi il problema è devi usarlo senza la carica sul microfono, mentre magari se lo usi in FM puoi anche inserirlo proprio. Così va benissimo per me. Grazie. Il problema è che poi lo usi in banda laterale e non va più bene, devi cambiare tutto e poi ritorni qua e basta poco perché basta toccare un tizzi e cambia. Adesso ho ripreso anche a muovermi. Va bene, vediamo insomma se ora è un cazzo. Sì, se mette le regolazioni, oh, ma così poi ce l'hai a mente che te ne metti a mettere. No, già, non è una questione di tenere a mente, non ci sono. È talmente infinitesimale la posizione che non puoi. A mente la metti lì, ma non è lì, perché poi hai bisogno che qualcuno ti dica no, fatti qua, vai avanti, vai indietro. D'altronde, quando giochi più pronti, capita che non puoi, non è una cosa dove puoi memorizzare e bloccarla e poi rimetterla lì, non si può fare. Vabbè, comunque l'importante è che adesso insomma sia ritornata recente. No, sei chiarissima, la vita nostra è una distrazione. Che la nostra vita è una distrazione. Una distrazione, però, mamma mia, non arrivi nemmeno, perché io adesso mi ricordo la rossa e poi cominciamo a spegnere un po' di radio, ci andiamo a mamma, che ormai la sveglia accanto. Io ho notato una cosa del microfono, mi sbaglio, però mi sembra che sia lo stesso problema che ha avuto Gianni. Mi sembra molto direttiva la capsula di quel microfono lì, cioè non è ampia, il raggio di emissione diciamo non è troppo ampio, come probabilmente il ruota al microfono, se non tiene esattamente allineato ci sono dei cali di modulazione. La trasmissione odorice, in questo caso del parlato. Allora, tu devi capire che quando sono in macchina, per non farmi notare le cose di blocco, tengo il microfono sul sedile, per quello ho preso l'amplificato. Scusate un attimo, c'è mio figlio mi chiama. Gloria. E beh, Marco. Lui, ciao, Marco. Allora, abbiamo riassunto ora, chiaramente. E allora, stai usando lì quello omologato? No, 7004. Ah, certo. Va bene. L'altro è ancora sotto i ferri. Tutta la trattoria è ancora. Ehi, prima io non sai come procedo. Io prima mi studio tutto il manuale e dopo gli metto mano. Caffa. Giustamente. Giustamente. Va bene. Comunque, quello già funziona bene qua, va bene, ho già trovato anche io, dico sono un po' più stravagante invece. No, io con questo mi trovo bene, certo, ahimè, non è che è fatto per questo, è anche troppo quello che fa. Certo, no, è buono. Ho sbagliato, ho detto questo, non volevo dire lo gli aerei. Quello è un po' più stravagante. Il 970 è uno spettacolo. Ma in AM non si riesce a trovare uno spettacolo. Bisogna pensarsi, ovviamente. Il tempo è di prova. Possiamo girare pensando a rifugi. No. Sicco io sono due giorni cercando il microfono del PD 17, non so dove l'ho messo. Nell'817? Ah, siccome ce non sai dove l'hai messo? E non sarà lì. Vabbè, che confusione già ce n'è. Visto. Lo trovo. Non lo trovo. Ce l'avevo con quella magica antenna, micidiale. Scusa, ma non te l'avrei portata in campagna, no? No, dimmi già. A proposito dei microfoni, visto considerato che tu detieni roba di anni fa, non è che ti trovi un tower più duro a Palamo, quello col cavo che c'è dai se ti ricordo? Ne uno solo però. Quello che piace a me. Quello l'avevo raccontato lei in quinto, era una bomba. Il microfono si è spostato nel canale, non è possibile continuare così. Già, vediamo la ricorda, se non hai detto. È quello della rotellina dietro. La croce d'este che c'ha una forma bellissima, mi piace molto quel microfono. Dimmi qua. C'è io quello, ce l'hai in meno, te lo vuoi. Ma cosa? Non hai detto niente. Non c'è problema, a me piace un bel microfono, mi ha sempre soddisfatto, l'unico problema è che c'era la batteria, trovare la batteria, e poi quello lì al Mercurio mi pare che fosse, non l'avevano tolto dalla circolazione perché era un materiale che non si è fatto usare, e usavamo quelle delle macchine fotografiche, quelle che c'era sotto erano da sì. Ehi, già quello che c'è, io non me lo ricordo, non mi ricordo, quindi la settimana scorsa, che ti ho dato la sua computer, non mi passava, non mi cambiava la pagina, adesso vediamo, non arrivo ancora sul Galaxy, se va bene, lo lascio, facciamo così, va bene signori, io vi saluto, ma non lo adesso mi hai detto, non è in buone condizioni perché dietro la vecchiaia è tutto dove attacca il cavetto blu, si è rotto e ha il guscio posteriore che è blu sempre, la rotella va 0, 1, 2, fino a 9, che non è, la rotella non funziona bene, però MT2/U. Ci sentiamo, avanti, ciao, anche Roberto, allora. Buonanotte. No, non è rotto il cavetto non ha niente, è logorato, perché l'avevo comprato usato, perché mi piaceva anche a me. Ce l'avevo anch'io con l'aria in quinto, questo andava benissimo. Io ce l'avevo nuovo. No, questo qui è proprio rotta la plastica dietro, adesso mi si è attaccato anche il pezzo, ma l'ho preso. Io dovrò mettere l'attacco, che dunque non è in buone condizioni. Più 3, poi c'ho quelli a CBR a tavolo, quelli ne ho 3, ne ho diversi, un sacco. Adesso perché me l'hanno mirato Gianni, altrimenti no. Beh, adesso parla un attimo con Gianni, perché lo apro, voglio vedere se l'ho avuto o meno la corte, senza che la batteria, non deve essere per complicato, perché li trovo sempre queste batterie dal micro. Anch'io lo faccio, adesso ho le mie 25 che la sto usando poco, ma al momento l'altro gliene lo pongo, poi ti faccio sapere la modulazione se ti piace con le mie 25. Forse adesivo, non lo so cosa, è ricoperto poco finto legno. e la parte davanti rimane tipo, è presente con gli amplificatori della Technics di una volta, tutto cromato così, con le manopole cromate, i tattivi, due strumenti, chiavato, metro rosso, metro segnale di modulazione, eccetera eccetera, e c'è anche le bande laterali. Quanti canali? 23? No, 40. Bello come apparecchio. Bello, no, quello non ce l'ho, però adesso, come ho un po' di tempo, io pure quando vado nelle fiere in giro li compro, perché molti li ho comprati in giro così, Ho comprato un Jumbo anche in giro, 90 euro, un Jumbo Aristocrat, e li prendo sempre alle fiere. Adesso è bene, non c'entro quasi mai, perché molte volte fregano la gente. Sì, invece c'è una gara, ma non c'è più 200 euro, lo sai. Anche Salvatore Laventuri, mi schiamo. Sì, Salvatore, ho capito. Ma è una gara. Ci hanno bruciato insieme. È lui che mi ha proposto la storia. Ti ho detto, ma sei sicuro? Ah, non ti preoccupare, c'è il sito, c'è tutto quanto. Sì, già c'era tutto, poi ho fatto un camuffo. Ma se l'hai preso su eBay, l'eBay penso che garantisca il cliente. Aspetta un attimo, adesso dirà questa. Che io ho pensato a fare, non mi interessa che prendere un Galaxy 7 un metro. E pensava a fare una cosa, partecipa anche tu, primo, che se lo giudica lo prende, poi vediamo di metterci la cosa se lo prende uno o l'altro, capito? Quindi abbiamo fatto, solo che ci sta proprio uno che si va giudicato, che hanno mangiato più di noi e si va giudicato. Quindi cosa è successo? Salvatore ha ricevuto una lettera dicendogli praticamente che ci avrebbero fatto lo stesso apparecchio però nuovo, con grandi garanzie, non si pagava il viaggio, e ci regalava anche il microfono da tavolo. Quindi la cosa era troppo, mi sembrava troppo bella per essere vera, perché io ho sempre desiderato uno di quegli apparecchi sin da ragazzino, da quando c'avevo la macchina, però non l'ho mai trovato, capito? Non sono riuscito mai a trovare, quindi non l'ho mai preso, adesso che l'avevo provato mi sembrava vero. Se non ricordo, la prossima volta ce l'ha un mio amico, un altro come il mio, lo stava vendendo a 300 euro però, se non ricordo male. Io non l'ho mai usato questo. Non l'ho mai usato, ce l'ho qui davanti. C'ha due strumenti. Il concetto è cosa uso a fare quando non ci sono paragoni con un 950 o con anche con un misero, come ti posso dire, PS50. Oh già. Guarda il chiaro di audio. Se tu vai al circolo che c'ha lui, in preparazione, se glielo chiedi trova, ce l'ha buttato lì col microfono a tavolo, che se me ne voleva 400.000 lire, però quanto c'era la lira, lui fa solo 200 euro sopra, vai lì e glielo chiedi. E dove ce l'ha preso in circolo? Lui ha detto, si ritrova a Piaggio, c'è un circolo, c'è il ricreativo sportivo, sali su, e lì c'è il sole, quello che c'era il trasito di olio. E io non conosco manco l'apparecchio, io volevo una persona che mi dà un apparecchio che funzioni, se no per pagare no, 300 euro la persona un altro video, perché per 300 euro aggiungo 50 euro e prendo 140. No, ne aggiungi anche 200, ti prendi il TS50 che è molto meglio. Per dire. No, ma è proprio la forma del... Vabbè, questi 50 è un apparecchio piccolo, ecco. No, mi piace proprio la forma, capito? La forma dell'apparecchio, il fatto che sia massimo lunghi, no? Così, mi piace così. Sì, sì, è bello, cioè, è come un rack poi con le manine. Sì, sì, sembra quasi un lineare, una qualcosa del genere. E quello che c'ho io, più o meno, è lo stesso. Io ho anche quello con frequenzine più piccolino, come si chiama? Sempre Galaxy, qualcosa del genere. Per tutto? Boh, tutto, no, metallizzato, no, Galaxy. Galaxy tutto, quello che c'ha frequenzine più piccolo da Maragua. Ma è quello che c'ha Claudio, se no. in samurai. Non lo so, sono anche in samurai che si sta per sentire, come fare. Se dobbiamo dare tutte le cose, Claudio, ci sono 20 miliardi, che cosa posso fare? Dove le metto? Dove le metto? Non posso avere mille cose. Alla fine quello le uso, vedi, le tocca accendere, le fa mettere i caricondensatori, poi si rovinano usandole. Comunque, Gianni, se il toccai non è stato mai toccato, che hanno embellizzato, lasciamo la parte anche quello, così ne avrò qua. Sì, lo posso lasciare, non c'è problema. Non è mai stato toccato niente. È nuovo, nuovo, nuovo, nuovo, nuovo. Se tu mi trovi un braccio, ti dico, non te lo tocco. No, qui io ce l'ho marcato Zodiac 1 e gli altri tre toccai. Però sono, è il baracchino che ho usato di fino a sud, insieme al 13898B, quello che aveva due strumenti grandi in legno della mitra. Quello che ho usato di fino a sud, il toccai. Poi aveva l'11 alfa, a parte quello, prende meno splatter degli altri, è un modulatore micidiale. Io dico la verità, ce lo fermo perché non mi ci sta più nulla lì, quindi l'ho messo dentro una busta e ce lo fermo. È nuovo, nuovo, nuovo, se tu lo dirà la taffa e lucido, la fa di schifo. Questa non la fa. Quando abbiamo capito di sentirci, venendo là. Infatti in questo periodo lo sto entrando. Io poi quando vado fuori, c'ho un baracchino, se non è, questo è bellissimo, questo è, andiamo in più. Lo smitter laterale grande, leggibilissimo, CW, FM, USB e LSB, 100 watt di potenza, fa da 26 a 30 MHz. Quello è bello, ma che quello così manopolo rosso, con la manopola centrale. C'è la monopola centrale del colore del Toccai 5024, blu così. Questo l'avevo provato, l'ho pagato un sacco, perché poi quando le cose mi piacciono. Poi la monopola centrale, però la monopola non gira, la tiri spostata e c'è il frequenzimetro, che non è neanche bello, se sono quelli un po' spartani. C'è il frequenzimetro in basso, 1, 2, 3, 5 segmenti e la frequenza. C'è quello che per sì c'ha la luce calduva, mi fa. C'ha due lucette, una verde e una rossa, una sinistra e una destra. Sì, ho capito, guarda. Molto bello la panetta. Questo qui ti piace come c'è di modulazione? No, uguale all'altro, mi sembra un po' più basso. No, è un buon apparecchio, nuovo nuovo, non so più lo stesso, faccio una fiera. Ma io mi dai il coso, il Galaxy, no, questo qua. Quanto cai? Il terzo. No, no, quello di colore glielo compro. Sì, ma almeno di 200 non lo do questo qua, nuovo, nuovo, nuovo. Facciamo sto un blocco, non c'è problema. Se lo vuoi vedere, te lo vendo. Ma mi serve proprio che coso, la ridare, se vedo questo tutto non ce l'ho fatto in fisso. Prenditi un TS50, dov'è? Mi sto per provocando, poi lo sai come faccio, no? Come mi giro, salgo in un furgone e vi annienta. Per quanto riguarda Claudio, Claudio, io non credo, adesso non mi piace essere molto presuntuoso, ma non credo che a senso di Nettuno e Marco, di quelli che non so, abbiate più radio di me. Poi posso anche sbagliarmi, ma ci credo poco. Io non ce l'abbiamo utilizzato. Non dire, però adesso spiego per te, siamo tutti un anno che ci stiamo per uscire, comunque ci vediamo, ci abbiamo bene, ciao buonanotte. Gianni, il mio numero c'è anche Claudio comunque di telefono. Ci sentiamo all'inizio. L'ho fatto dare da Claudio. Ci sentiamo. Se col galaxy non te ne fa niente, ce l'hai sempre fermo, ma a me se funziona bene. Perché cosa pensi? Quelli che prendo la recettura li uso. Li tengo così per vetrine. Ti ho detto che ce l'ha, lo sai chi ce l'ha uno? Ce l'ha, mi lo conosce anche Claudio. Come si chiama? Cerca 23, che era molto. Ah, sì, ce l'ha uno, c'è quello che ce l'ha. Sì, ma bisogna se lo vuoi. Sì, è un attore, cosa se ne fa lui? Ho visto una sonda alla ticchetta, per lo meno figura sembrava nuovissimo, mai usato. E questo qui non lo abbiamo fatto, lo stesso che tocca a me. Per questione di spazio se lo dovete dare fuori, perché adesso era di amatore, non lo si capì nulla. Se lo sta guardando 180 euro, e che lo voglio dire in quel momento, perché se no non lo dice. Sono grande di dimensione, ma sono come la radio, quella che lo riceve da tutto, né più né meno, non cambia niente, capito? Non cambia niente, le mani ce lo guardano, le coltine, tutto, cioè tutto quello che c'è allora, non cambia niente. Quindi non è per piccolo piccolo, scusa, ma non lo recupero di stato. Cioè anch'io volevo riflare. Come piace grande, che è quello che mi piace, per la velocità in base, in casa, come piace grande, non piccolo. Quello è più bello del Galaxy Class, perché ha due smitter enormi, ma non poi canale, frequenzine tra fianco, è grande. Poi potenza per prendere tutto, che tu c'ho, almeno questo che c'è scritto, Fair Power è segna 50, non so se sono poi 5 watt o 50, se non lo so pure in mano. 50, il Galaxy Saturn, ecco, Saturn, cioè si trova Galaxy Saturn, Galaxy Saturn, fine corso, on, square, perché in banda, A, B, C, D, E, e basta, quindi power da 0, 10, 20, 30, 40, 50, e poi niente, c'è lo SVR, più o meno 10, ecco, NL, così, calibrate, storia, una serie, ma che... Quello è quello che ci io, anche io sono un po' più che c'ho andato adesso, quindi è uguale, cosa cambia? Cosa cambia? C'è un baracchino che mi è, nel mondo che fa la giornata in casa, cosa, ma niente in più, nulla, io c'ho anche una domanda in più per questo, perché c'ho una domanda F, arrivati sono 25, non 50, non c'è la finale a 50 watt, grazie, c'è la finale a 25 watt. Ma se a uno gli piace è grande, perché questo è un hobby con le sue paranoie, e a me piace usare il 781 perché ha un display che mi piace quando parlo e mi piace usarlo quando ho l'HF. E sto usando il 950, non mi piace perché mi sembra cieca un occhio, perché non ho il display, non vedo se c'è gente a fianco, non ho l'oscilloscopio, il monitoscopio, come cavolo si chiama. Cosa vuol dire? C'è gente che dice, no, ma mi basta piccolina, lui dice, se mi piace così ha ragione, vuole cercare così. Quello di Carlo non prenderà, adesso la moto non lo sento, devo andare anche da lui. Vabbè, adesso voi venite a letto, io invece stanotte in emergenza con il giornale, dunque me ne vado un'oretta alla cuna e torno a casa tutto morto. Quello puoi, lo chiamo e ci mettiamo l'accordo. se vi interessa, se no rimane qua qualche nuovo di due per tutti. Sì, no, l'ho preso io praticamente di occasione, questo diciamo questo negoziante di baracchini, roba del genere, di radio, stava facendo pubblicità al magazzino e la trovateria, addirittura c'ho anche lo schemino, ce l'ho anch'io del toccato, c'è tutto quanto, non è praticamente l'ha messo sul B, ha messo 99 euro, me l'ho dedicato io 99 euro perché nessuno l'ha preso, l'ho preso io. Era tutto originale, microfono originale, il cavo nuovo di Zenka, è tutto nuovo, cioè se tu lo vedi tu mi ci sto facendo a negozio. Sì, ma è quelle tue sono risposta. Però il minimo. Comportamento sono cari, prima ne avete detto un prezzo, non si fa. Ah, no, non ci mettiamo d'accordo, non ti preoccupare. L'altro te l'ho detto, ma il 200 non lo perché io l'ho pagato così, è nuovo di Zecca, capito? È nuovo, nuovo, nuovo. Proprio non c'è un grasso da niente. Va bene. Fatti sentire. Vedere il numero di telefono che c'è sono scritto poi devo andare al giornale. E che c'è anche una modifica, capito? La canalizzata tra le alti e tra di sotto. È meglio sempre non farle le modifiche comunque, perché quando tieni le cose originali è sempre meglio. A me non servono perché a me lo lavare in acca e fai cosa te ne fai le modifiche. Vabbè. Ma questo qui capito spazio, capito? Posso capire che comunque l'ha visto, l'ho portato a farlo vedere a cosa Massimiliano, è rimasto a bocca aperta, c'era anche quello che c'è di Bundy dell'Overlap, ce l'ha presente, ha detto, oh che bello, nuovo nuovo, l'ho portato a farlo vedere a Massimiliano. Sì, ma bisogna vedere se oscilla bene quando va sotto, è sempre meglio lasciarlo normale. Sempre meglio lasciarlo normale. Ah, guarda, è perfetto quello che ho provato io. Sono andato sotto, sopra, va bene su tutti i canali, se poi lui lo proviamo non c'è problema. Capito? Diciamo che è la qualità come si vede, no? È l'uomo nuovo. Infatti io volevo prendere al posto di questo il Galaxy, però non ho provato solo questo. Un po' diciamo che nel cuore mi è rimasto il Galaxy, anche perché quel bastardo mi ha fregato 200 euro, non lo posso sopportare. Ma quello bisogna fargli qualcosa. Una risalta, se non è tratta di bisogno, come sta fregato, me lo spieghi naturalmente. Ma se non fosse l'altro, io pensavo fosse lui. Va bene. Devo andare lì, non è un buco. Va bene, posso chiudere. Ci sentiamo. Ok, va. Ok, sentire. Comunque, se sarebbe già fatto la denuncia alla polizia postale, non c'è problema alla finale. Non ho capito, la polizia postale? Che ho fatto la denuncia alla polizia postale alla finale. Ha detto che è diciamo, un gruppo internazionale che ha fregato, ma non una persona, no, 100.000 persone al giorno. Abbastanza. Vabbè, non è la direzione, c'è il bisogno di zizio, non è nulla. Pago. Pago, però, cosa va? Anche se sentire, all'inizio non ci mettiamo d'accordo. Però sempre per liberarsi, tieniti in mente che non mi interessa. Sì, se lo trovo un altro sicuramente, il mio non lo do. Non lo do, poi a più l'ho acceso due mesi fa, c'è tanto vedi, camera 23 è 27255, invece qua mi segna 26255, 2205. E devo toccare, mi ricordo, la manopola del motore, ecco, per farlo andare in quella frequenza, altrimenti c'è questo difettivo. Però non lo do, tanto non lo uso, poi. Ma che è bello, un bello fisso molto alto, 9.30, sì, sì, sì. No, il prezzetto è bello, però è un baracchino, se si è messo spettato. Devo andare, se no devo starci. Ciao. Ciao, non cavo di andare. No, non assolutamente niente, è una nuova, perché ho una doppia macchina, però per il corso. Che fai, sentiamo, tranquillo, ciao ciao. Notte Walter. Ciao, adesso c'ho anche quest'altro il coglione che ho il segnale a metà. Non vorrei pensare che sia rotta l'antenna. Questo non è una Puglia. Ma no, non credo. Magari è il connettore, basta. Connettore. Non è quello, io sono devo ordinare, montare una giovaniana. Già per mettere quella massa da una col dipolo ho fatto più 3.000. Comunque, Antonio, ti posso pensare di liberarti così di me. Questi giorni, appena ho la mente libera, c'ho un sacco di rotture di balle, a parte mi hanno mandato la finanza, sono in giorno lì perché mi stanno facendo le verifiche in contabilità. Sono tranquillo, però sono impegni. E appena finisco queste cose, ti chiamo, diciamo, tra quella festa, la 67, la morte. Va bene. Ciao. Pronti, come sempre, c'è da mettere quella del 160 e tutto il resto, sono pronto. Se la rinca non c'è la fermata in letto, ma se non mi hanno dubbio. Cazzo, non è che la potenza non è adesso. La fase in lusso. No, penso che mi alterna, va bene. Sì, sì, Walter, ma è il capo, il connettore, non è certo l'antenna, vai tranquillo. C'è il capo nero. Ma io non me lo so trovare, no, non è detto. No, no. No, no. Se carica 300-400 watt, si nota subito se c'è qualcosa che non va. Ma così con poco. Non è nulla, non è niente, io si posso riparare in poco tempo. Bene. Allora aspetta un attimo, io adesso sono 2 volte e mezzo, adesso se non disturbiamo portiamo avanti sino a 7-8 watt. Allora, Gianni, come ti piace più la modulazione? Così o così in questo modo? Allora diciamo che la prima è più da salotto come per la notte va meglio, l'altra è più amplificata e va bene più per lunghe distanze, diciamo così, per il salotto va meglio la prima. Ah, quella voce rauca, che dà un senso di pace, diciamo. Di riempimento. Sì, un po' di atmosfera notturna. Chiudo. Faccio salto 40 a vedere cosa c'è. C'è qualcosa da buono da cacciare, altrimenti ce ne ho a letto. Vabbè. Buona questa idea, allora. Ci sentiamo. Stanno bene. Buonanotte, dai. Avanti. Ciao, ci sentiamo stanno bene anche lui. E altro neanche a volte, la batteria. Allora Gianni, ripeti. Buonanotte Alessio, se c'è qualcun altro, quelli che stanno ascoltando, dimmi i saluti a tutti, buonanotte. Sì, non so tu, penso di sì comunque, ma per fatto sia qualcuno che ascolta. Stasera è una bella rotta, veramente mi ha fatto piacere che anche Walter sia rientrato. che era da tanto tempo che non ho sentito, Antonio, l'ho detto anche a Mattarino ieri, se non c'è più, te lo giuro, ho detto proprio Antonio, cavolo, non ci doveva mancare, perché era simpaticone della frequenza, invece non sta entrando manco più lui, invece mi ha preso un grave, mi ha smentito, mi ha detto guarda che sta entrando, allora ho acceso lui. Sì, vabbè. Che periodi adesso, ho capito, d'estate lo sai come c'è gente che va al mare, c'è la casina in via Pazzamona e quindi non c'è la baracchina, c'è chi lavora anche, chi lavora di più d'estate che d'inverno. Vabbè, io sono il primo che se non devo andare a vivere con la famiglia me ne vado a vivere, se non devo andare fuori me ne vado fuori, vado a ballare, eccetera, eccetera. Ma diciamo che trovo lo spazio per tutti. Io insomma anche dovuto ballare un pochettino perché sto facendo altre cose, se non si diventa tutti giù dei miei primi. Mi trovo con il tanto già l'hai vista, non lo abbandono, ce l'ho. Non è che ti prendi il dicendo di gioco di avere quella cavolo di cosa, portamela qui per farmela, capito? Quindi ti pare che me l'ha perso nell'altra casa gira gira perché prima. Infatti, per aspettare la mare, non mi sono aspettato a fare. Sì, è abbastanza questo. Anzi, mi torno a cambio, faccio il cavo questi giorni, così faccio prima. Mi cambio il cavo, non ho la pulita con l'antenna sopra. E lascio questa. Solo per prendere il cavo e passa. Eppure lascio qua. Non è neanche voglia di salire su, attaccare niente, no, non me la faccio niente. Infatti. Allora, io ti saluto là. Che non è andato a fare l'ex, domani mi devo fare presto. Buonanotte, a te, ti divento l'ascolto, potete parlare, ciao. Ciao, ci sentiamo le prossime, capite? Comunque, di chi?